stavolta deciso che vado, ma perché non me l'hai detto tu di non poterne più? Dentro a quel mezzo sorriso un po' spento ho scoperto i difetti che hai, ma come avrò potuto amarti mai? Giuro che vado via, casa tua, più non c'è. Adesso che posso ti lascio, non son più quel ragazzo che sai, ma non avrò ripensamenti mai. Giuro che vado via, casa tua. Tremo sul confine di un mondo sereno, il mio viaggio finisce con te. Ma come avrò potuto amare te? Giuro che vado via, casa tua, più non c'è. È meglio se adesso che posso.